Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti. Come annunciato prima nel giornale radio, dalla Borsa Internazionale del Turismo, Pietro Lacorte qui con me in regia insieme a Margherita, poi c'è Giorgio De Luca in redazione a Milano insieme a Roberto Scaltretti. Insomma, la squadra è nutrita oggi. Massimo Callegari da Mediaset Premium qui con me. Ciao Massimo. Ciao, che piacere. Mancavo da troppo tempo. Mancavi da un sacco di tempo. Gli ascoltatori possono intervenire da qui, così si sente anche qui intorno. 800 24 00 24 è il numero verde. Disfatta ed è già futuro, forse siamo nel posto giusto. Non so se per l'Inter sia tempo di turismo, certamente sarà tempo di viaggi, caro Massimo Callegari. Sì, tempo dei viaggi. In realtà il problema è che il futuro si costruisce passando da un presente che in questo momento è drammatico, è la sottovalutazione del recente passato ha portato a questa situazione. L'Inter ha fatto un punto nelle ultime sei partite, in questo periodo è uscita anche dalla Coppa Italia, che era comunque una competizione in cui negli ultimi anni era sempre arrivata in fondo. Devo dire che paradossalmente mi ha colpito di più la proporzione della sconfitta di ieri, il modo in cui è arrivata, rispetto a quella con Novara, che già era stata drammatica dal punto di vista tecnico, però c'era qualche avvisaglia. Con la Champions alle porte la sensazione era che l'Inter comunque potesse e avesse l'obbligo di ricompattarsi. Se questo non è stato, e se Ranieri commette gli stessi errori agli stessi limiti che aveva nelle sue esperienze passate, arrivo a dire addirittura alla Fiorentina, ma insomma, torniamo veramente indietro, ad esempio nella gestione del rapporto con il numero 10, la situazione è veramente drammatica. Ma tu pensi che i limiti siano di Ranieri o pensi che brutalmente la squadra lo abbia mollato? No, penso che lui abbia commesso, come in altre situazioni, non ultima quella alla Juventus, quando aveva espresso a febbraio la sua opposizione all'arrivo di Diego e la società invece aveva detto no, Diego lo prendiamo, lui abbia trovato gli stessi ostacoli e la stessa delegittimazione da parte della società come gli era successo in altre situazioni. Mi riferisco alla questione Thiago Motta di mercato, affrontata in maniera troppo pubblica per le conseguenze che ha avuto, e mi riferisco al rapporto con Sneijder, che è stato gestito malissimo da lui in primis. Da lì la società ha fatto capire alla squadra che lui non aveva l'appoggio totale e di conseguenza poi la squadra lo ha abbandonato un po'. Mi sembra fin troppo evidente, no, che dal rientro di Sneijder le cose siano cambiate, perché l'Inter arrivava da questa lunga rincorsa, non è mai stata una squadra brillante, però era una squadra che aveva trovato dei meccanismi molto semplici, molto banali se vogliamo, però era una squadra che tutto sommato ci credeva. Ma non so se qualcuno abbia davvero creduto allo scudetto, io no, non ho mai pensato che l'Inter fosse davvero tornata in corsa per lo scudetto, però ritenevo che quel terzo posto, che era l'obiettivo massimo, fosse raggiungibile, realistico. Adesso viene buttato via insieme a tutta questa stagione. Mancini in settimana ha detto, beh, è fisiologico che una squadra che ha vinto tanto passi un anno così difficile. Il problema è che adesso, sai, prima si diceva c'è stata questa rincorsa, magari si arriva a terzi, magari Ranieri può continuare, in fondo ha fatto un buon lavoro, invece adesso siamo già al toto allenatore totale. Sì, peraltro, ripeto, sempre alla vigilia di un impegno di Champions contro un avversario accessibile dal punto di vista dei valori individuali. Poi il problema, io stando ormai da anni con Arrigo Sacchi, insomma, ho cercato di imparare qualcosina da lui, e il problema rimane sempre che noi, come lui ha scritto e detto più volte, ragioniamo sul calcio e del calcio come di uno sport individuale, mentre tutta Europa ormai ne ragiona come uno sport di squadra, e da qui poi le nostre difficoltà. Quindi l'impegno con Marsiglia accessibile, in realtà in una maniera e in una condizione così disastrosa l'Inter ci arriva non più con tutte queste chance, con questo futuro ancora da ricostruire, con questa ipotesi ultima del traghettatore doppio Baresi Figo, con la possibilità addirittura di arrivare a una gara di Champions come fece anni fa con Verdelli a Mosca, però perse malissimo. Cioè, in una situazione in cui la programmazione è assente, in cui anche la figura di Branca dopo tantissimi anni è in grande discussione, quindi veramente il peggio possibile. Sentiamo anche una battuta di Oriali a questo proposito, sì, molto, molto critica. Però c'è Giovanni Capuano in linea che ha informazioni e che potrebbe delinearci il futuro immediatissimo e quello magari a medio termine. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Siamo quasi al momento della viabilità, cosa dici? Rinviamo dopo il traffico così abbiamo più calma? Allora, rinviamo e ti dico che come viabilità sull'aereo per Marsiglia salirà Ranieri. Sì, salirà Ranieri sull'aereo per Marsiglia, non so se è l'ultimo volo che prende con l'Inter. Allora Giovanni Capuano, Ranieri salirà su quell'aereo per Marsiglia, non so se sarà l'ultimo della stagione. Se sarà l'ultimo aereo dipenderà dal risultato della partita in Francia, perché il credito di Ranieri si è ampiamente consumato nei confronti della squadra prima di tutto e di Moratti lo si era già intuito in realtà dopo la sconfitta contro il Novara. Nella lunga intervista che Moratti aveva rilasciato al Corriere della Sera, Moratti è in silenzio da ieri sera alle 10 circa, cioè da quando ha abbandonato Furente San Siro, capendo che l'Inter non aveva nessuna possibilità di recuperare il doppio svantaggio al Bologna. Non ha ancora parlato, oggi non è andato alla Pinetina, oggi è stata una giornata molto lunga da Piano Gentile, tra l'altro con un piccolo giallo, perché in mattinata all'allenamento diretto da Ranieri regolarmente per rappresentare la società c'erano soltanto Piero Ausilio, che è il direttore sportivo, e Stefano Filucchi, che è il vice direttore generale. Poi a un certo punto si è saputo che era arrivato anche Marco Branca, colmando così un vuoto di una dozzina di ore iniziato ieri sera, quando nel dopo partita Ranieri e la squadra erano quasi completamente stati lasciati soli dai dirigenti tecnici, quelli che quella squadra l'hanno costruita, e cioè lo stesso Moratti e Branca. Negli spogliatoi c'era Ernesto Paolillo, la cosa era parsa subito un segnale di distacco abbastanza netto tra Moratti e la società e Ranieri, tant'è vero che io poi credo tu faccia riferimento a quel particolare passaggio di Gabriele Oriali. Gabriele Oriali, che era in diretta su Mediaset Premium, l'aveva notato e l'aveva immediatamente sottolineato proprio per allora, far capire come abbiamo, fosse... visto, Giovanni, visto che abbiamo questa battuta di Oriali, provo a chiedere alla regia se riesce a metterla in onda. Niente, c'è l'allenatore abbandonato il proprio destino. Se è vero quello che dice il nostro corrispondente da Milano, dove all'interno dello spogliatoio c'è solamente il direttore generale, che di calcio non è che ne capisce molto, a me sembra tutto strano, veramente. È andato giù piano, Massimo. Mamma mia, sì, pesantissimo. Però, insomma, al di là dei termini e del concetto molto duro, il discorso è: c'è chi ha delle competenze amministrative, economiche, gestionali, direttore generale, c'è chi ha invece delle competenze tecniche, sportive, direttore sportivo, Marco Branca, eccetera, eccetera. E questa è una realtà e questo è il grande problema. Cioè, alla fine Ranieri, come Gasperini, come Benitez, pagano degli errori loro, delle gestioni loro, di recente Ranieri delle nefandezze tecniche nel corso delle partite, con cambi di sostituzioni, cambi di modulo impressionanti. Alla base però c'è una società che non dà nessun tipo di certezza, di solidità e di legittimazione all'allenatore di fronte ai giocatori, che continuano ad avere un potere incredibile. E devo dire che con dinamiche diverse, con proporzioni che dovranno essere ancora comprese, è una situazione che ricorda un po' le difficoltà enormi che ha avuto il Milan, no? Sì, nel post Champions 2003-2007, eccetera, eccetera. Giovanni, allora chiudiamo la cronaca. La situazione adesso è questa, e per il futuro invece cosa c'è? Sì, per chiudere la cronaca, oggi in realtà, quando poi Branca è andato su da Piano Gentile, c'è stato un doppio confronto: il primo fra Ranieri e la squadra, il secondo tra Branca e Ranieri. Da qui è scaturito quella che insomma sembra essere in questo momento la posizione dell'Inter, cioè Ranieri sale sull'aereo per Marsiglia e, a meno di disastri, resta l'allenatore dell'Inter, perché Moratti non è per nulla convinto della soluzione interna, perché Figo in tandem con Baresi significherebbe di fatto consegnare l'Inter all'autogestione dello spogliatoio. È un esperimento già provato, una strada già tentata in passato, prima che iniziasse con Mancini la striscia delle vittorie, e non aveva mai dato dei risultati. Quindi se Moratti riesce a trovare la forza e qualche appiglio nei risultati per evitarsi questo tipo di soluzione che consegnerebbe l'Inter a un finale di stagione quasi certamente al di fuori della Champions League, lo farà, anche se è molto deluso, ha volontà di rilanciare ma ha bisogno che la squadra arrivi almeno terza, perché altrimenti si crea un buco di bilancio di una trentina di milioni che vanificherebbe gli sforzi fatti fin qui, che hanno portato l'Inter a un passo dai famosi parametri per il primo triennio per il fair play finanziario, motivo per cui in realtà il progetto dell'Inter, se dovesse arrivare almeno al terzo posto, è dal punto di vista tecnico in questo momento nella testa di Moratti un progetto abbastanza importante. Bisogna dimenticarsi Mourinho e Guardiola, anche se giusto un'oretta fa il portavoce di Mourinho su Twitter ha fatto notare con un po' di perfidia come ieri a Milano e oggi a Londra i tifosi di Inter e Chelsea abbiano invocato il nome di Mourinho, che invece a Madrid viene fischiato. In questo momento Moratti guarda con grandissima attenzione a Villa Boas, alle sue difficoltà al Chelsea, gli piacerebbe molto riportarlo a Milano, l'estate scorsa non c'erano le condizioni economiche per farlo, ma ora tutto potrebbe essere cambiato, soprattutto se Abramovic decidesse di tagliare immediatamente il rapporto con Villas Boas, che tra l'altro anche oggi ha recuperato all'ultimo un pareggio abbastanza sofferto in casa, in Coppa contro il Birmingham, è davvero in un momento molto difficile e anche per lui sarà decisiva la partita di Champions. L'altro nome, che è quello che è in cima al taccuino di Moratti, è quello di Blanc, che a Moratti piace, che sicuramente dopo l'europeo sarà libero, però è del tutto evidente che se l'Inter dovesse mancare l'approdo almeno ai preliminari di Champions, i discorsi dovrebbero essere riscritti da zero, con a questo punto un ridimensionamento importante ed ulteriore, perché si tratterebbe di un ridimensionamento obbligato per via dei conti. Tu considera che l'Inter ancora quest'anno, che pure ha un fatturato che gode di alcuni introiti, di alcune cessioni, di alcuni risparmi importanti, ha un fatturato che è in calo rispetto a quello delle ultime due stagioni. Prova a immaginarti cosa sarebbe entrando non nell'Europa che conta, ma in quella dell'Europa League. Sicuro. Che dal punto di vista economico vale molto meno. Sicuro. Grazie Giovanni, grazie. Grazie a te. Grazie a Giovanni Capuano, Mario provincia di Milano, Vincenzo provincia di Pisa sono ascoltatori in linea, li sentiamo Massimo? Certo. C'è anche chi scrive, Lucio da Varese, il clan sta facendo a Ranieri la stessa porcata che ha fatto a Benitez, questo scrive. È l'ammutinamento. L'ammutinamento. In effetti, cioè, è legato al discorso di prima della legittimazione che la società non dà totalmente all'allenatore, ed è legato al fatto che casualmente, forse, ma probabilmente anche no, questa difficoltà e questi risultati, un punto nelle ultime sei partite, l'unica partita in cui l'Inter ha segnato è stata quella col Palermo, arriva nel momento in cui Ranieri ritrova gran parte della rosa e ha alternative a disposizione, vorrebbe creare competizione interna, perché questo aiuta sempre tutti a migliorare il proprio rendimento, ma non gli viene permesso, e poi alla fine rinuncia a Poli, rinuncia a Faraoni, rinuncia a Palombo, eccetera, come Benitez ancora a priori era stato costretto a rinunciare a Mascherano, a Evra, al sogno Jovetic, che erano gli uomini sui quali lui voleva puntare per dare un po' di movimento di vita interna. Ranieri in prigione. Mario, provincia di Milano, buonasera. Carlo, buonasera, è sempre un piacere. Allora, io sono un tifoso milanista, noto che quello che sta succedendo all'Inter, l'avete detto prima, ma avete rubato proprio all'85esimo l'intervento, è successo, che sta succedendo all'Inter è successo al Milan nel 2007, nel senso un tappo sul rinnovamento dato dalla vittoria della Champions, fiducia a tempo indeterminato ad alcuni senatori che secondo me non ne hanno più, potete metterci il miglior allenatore del mondo, ma se non ne hanno più, non ne hanno più. E quindi questo è quello che sta succedendo all'Inter. Io ho lo scudetto sulla maglia, però non mi sono dimenticato che siamo dal 2007, perché no, quella del 2003 era una squadra in completa ascesa, con l'età media di 26 anni, con Pirlo 24 anni, Shevchenko e Nesta 26 anni, quello era uno squadrone. E quella del 2007 era una squadra che ha raccolto tutte le sue forze, ha detto diamo il massimo per quello che possiamo dare, l'anno dopo siamo usciti con l'Arsenal che ci ha fatto ballare il GKG qua a Milano, io non me lo dimentico, e poi siamo usciti agli ottavi col Werder Brema, siamo andati a giocare a Manchester con Borussia, questi anni non me li dimentico, e questo è il rinnovamento che la Coppa del 2007, con tutte le gioie che ci ha portato, ma fisiologicamente impedito, secondo nessuno me. Mi toglie, Mario, nessuno mi toglie dalla testa, ma l'ho detto già anche troppe volte, quindi sono assolutamente noioso e me ne rendo conto, che questa squadra sia finita la notte di Madrid, poi il resto è stato non dico agonia, ma viale del tramonto che sta arrivando alla fine, quindi questa è ma una sensazione avvalorata dai fatti. Grazie Vincenzo, provincia di Pisa. Sì, buonasera signor Genta, sempre un piacere ascoltare la sua trasmissione. Pronto? Sì, sì, la sento. Sì, senta, dunque io volevo appunto intervenire sull'argomento della trasmissione, visto che sono anche un tifoso interista, e mi auguro che il presidente Moratti non commetta la sciocchezza di mandare via su un'onda emotiva Ranieri, perché voglio dire, Ranieri con tutti quelli che possono essere i suoi limiti, comunque è l'allenatore che ha preso una squadra che mi pare di ricordare fosse quart'ultima in classifica e gli ha permesso di arrivare fino al quarto posto. Sì, gli ha permesso di fare questa rincorsa, però adesso ha perso 1-0 in casa col Novara, ha perso 3-0 in casa con il Bologna, dunque diciamo che non è al punto di partenza naturalmente, però è lì in un limbo in cui non può più conseguire forse nemmeno un risultato minimo. Vincenzo, io voglio sentire un attimo Massimo Callegari, la ringrazio e poi ci fermiamo un attimo. Sì, secondo me qui c'è anche un aspetto proprio di nostra mentalità e un po' contorta nella gestione dei rapporti professionali, adesso senza allargare troppo il discorso, però quello che succede all'Inter in riferimento a quello che è successo al Milan, ripeto, con proporzioni che sono tutte da vedere poi se saranno le stesse, però è in quell'ambito anche che mi ricorda la disavventura della Juventus in Serie B, no? Quando si parla di riconoscenza e quindi i giocatori che hanno fatto o grandi cose o grandi gesta oppure hanno dimostrato attaccamento alla maglia, molti perché anche non avevano avuto offerte, tra parentesi, della Juventus in questo caso, sono rimasti in Serie B, allora poi bisogna che questi giocatori rimangano nel club, abbiano ancora grande spazio, eccetera eccetera. Ma il fatto che ci sia o ci possa essere un rinnovamento non significa che il club e chi gestisce la società non abbia la totale riconoscenza, la totale gratitudine per quello che i giocatori hanno fatto negli anni precedenti. Però purtroppo il ciclo dello sport e la necessità di essere sempre al top sul piano fisico, della mentalità, delle motivazioni richiedono un cambiamento. Sì. E quindi secondo me siamo figli un po' di questo, certo, di questo nostro limite, certo, culturale, certo, ripeto, senza voler allargare troppo il discorso. Dunque ci fermiamo un attimo, beviamo un goccio d'acqua e poi riprendiamo a parlare, perché c'è l'Inter 800 24 00 24, ma c'è anche, visto che siamo qui alla Borsa Internazionale del Turismo, c'è insomma prenotazioni aperte per la gita a Londra per il Milan, perché tale sarà dopo. Pensa il 4 che c'erano 0. Tifosi io ero a San Siro allo stadio mercoledì, uscendo sentivo tifosi che dicevano si va a Monaco addirittura. Questa è lunga. Hai capito? Dai, nel giro dei tre giorni. Sì, nel giro di tre giorni. Torniamo insieme con Massimo Callegari, qui con me alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo, turismo milanista di puro piacere a Londra per l'Arsenal. Un turismo, ci scrivono, ma del Napoli non parlate, Napoli che ho ieri... Ho seguito appositamente Chelsea Birmingham oggi per essere qui preparato. Napoli che ha la faccia opposta rispetto all'Inter, mi pare, Massimo. Sente profumo di Champions e riprende colore. Per un confronto che si diceva bah, impossibile, dai, l'ultimo grande ballo, invece adesso vediamo. Oggi il Chelsea cosa ha fatto? Oggi il Chelsea ha pareggiato 1-1 in Coppa d'Inghilterra con il Birmingham, che è quinto nella Championship, cioè la Serie B inglese. Perdeva, ha fatto ancora grandissima fatica sul piano difensivo, e questo credo che sia il segnale più importante per Mazzarri, anche perché sulla velocità gli spazi che concedono vanno in difficoltà. poi ha sbagliato il rigore Mata, parato sul palo, hanno giocato meglio, hanno segnato un bel gol con Sturridge, ma hanno pareggiato, vanno al replay e comunque Vias Boas nell'intervallo ha sostituito Torres, che non fa gol da 22 partite dal 19 ottobre, e ha inserito Drogba, la squadra è andata un po' meglio. Evaristo Beccalossi, ciao Evaristo. Eccoci, buongiorno. Eccoci. A tutti. Ciao Evaristo. Ciao, c'è Massimo, ciao. C'è Massimo Calegari qui con me. Allora, vai, sì, tu ad, mi dicono che vai tu ad allenare l'Inter. Ho sentito questa. No. Anche se, no, vabbè, non ho mai pensato di fare l'allenatore, però mi piace analizzare e capire questo momento, soprattutto che non è dei migliori. Però non sono né troppo ottimista quando le fa, cioè euforico quando le cose vanno bene, neanche troppo pessimista quando non vanno bene. Bisogna uscire da questo momento e mercoledì sarà una bella gara di Champions League che mi piacerebbe affrontare in un certo modo. Ah, sei un po' ottimista. Ma siete svenuti? Siete svenuti? No, siamo qui, stavamo sentendo il tuo ottimismo. No, ma se cosa vuoi parlare? Un momento che insomma i numeri sono quelli, però è anche vero che c'hai di fronte mercoledì una gara di Champions League, chi ha avuto la fortuna, insomma, di fare calciatore e di trovare i giusti equilibri, la giusta voglia, la giusta cattiveria sportiva di rivalsa che mi dà fiducia. L'importante è che in questo momento di difficoltà cerchiamo di mettere giù la squadra in un certo modo, perché in questo momento probabilmente non siamo in grado di imporre noi il gioco, ma stare belli curti, uniti e puntare su giocatori di qualità che magari ci possono far gol in qualsiasi momento. No, Evaristo, ma vorrei chiederti questo, anche per la tua esperienza, anche se era insomma un altro calcio con altri impegni, magari anche altre dinamiche di rapporti di spogliatoio, meno influenza dei giornalisti e dei media, però cioè, è così complicato in una grande società come l'Inter mettere in discussione dei totem che all'interno dello spogliatoio e nella storia vincente e recente della squadra hanno avuto un peso enorme, però sul piano del rendimento non sono più quelli di qualche anno fa? Il riferimento chiaro è a Zanetti, a Cambiasso, allo stesso Stankovic, anche se ora è da tempo, quest'anno praticamente non c'è stato. Cioè, è così complicato? Secondo me no, se forse eravamo un po' più pronti nel cercare di gestire un po' meglio questi grandi giocatori, perché io sono convinto che pian piano c'erano da fare degli inserimenti che ci potessero permettere di far recuperare un po' certi giocatori. Cioè, credo che giocando tre volte alla settimana, per i motivi che avete sottolineato giustamente voi, sia difficile averli al top. Però forse a noi ci manca chi doveva dare un po' di riposo a questi giocatori. E lì ci siamo, probabilmente chi è arrivato non è ancora pronto per dare una mano per sostituire questi grandi giocatori. Ma è questione, insomma, è stato fatto un ciclo vincente, forte e importante. Dobbiamo cercare di programmare il futuro non sbagliando gli inserimenti con giocatori che dovranno andare a sostituire questi grandi giocatori che ci hanno permesso di vincere tutto negli ultimi anni. Sei soddisfatto della risposta? Sì, sì, volevo capire anche se secondo lui nella programmazione futura si prescinde o ci si basa invece sulla figura di Sneijder. Ma è un discorso particolare anche quello di Wesley, dipende dall'allenatore che c'è. Io credo che singolarmente, prendendo Wesley, sia un giocatore che non può essere discusso, però inserito in una squadra come la nostra in questo momento, credo che non possiamo sopportare le due punte con Sneijder in appoggio. Allora probabilmente Sneijder, se vuol giocare in questo momento, di prendere in considerazione magari di metterlo davanti vicino a Milito e fare una squadra un po' più tosta, un po' più che lotta tra virgolette, va a cercare la voglia, l'aggressività, e Sneijder lo uso là vicino alla prima punta che potrebbe essere Milito. Poi dopo per i discorsi tattici credo che la scelta di Sneijder sicuro a fare la squadra attorno a lui, credo che la società abbia altre idee, insomma. Senti Maristo, ti chiedo ancora due cose, due. La prima, il Napoli ce la fa con il Chelsea? Se si aspetta il Chelsea credo di sì, perché il Napoli secondo me negli spazi con i tre davanti è devastante. Se deve fare la partita può andare in difficoltà, mentre invece così sono convinto che sono attenti. Con le caratteristiche che hanno Ansi, Lavezzi, Cavani possono far male in qualsiasi momento. E Andrei, ecco, sarei cauto nel cercare di fare la partita a tutti i costi, però di sfruttare bene gli spazi. E il Napoli secondo me ce la può fare a battere il Chelsea. Un'ultima cosa facile, chi vince lo scudetto? La Juve o il Milan? Credo, a me non piace fare pronostici, però credo che il Milan, dopo la bella vittoria con l'Arsenal, la testa ce l'ha in Champions League. L'unica squadra che in questo momento ha il campionato, che è l'impegno più importante, è la Juve. Credo che la Juve sia la favorita. Grazie Beck. Un abbraccio, buon pomeriggio. Ciao Evaristo, a presto. Ciao Evaristo. Allora, pronostici beccarossi sono questi. Anche secondo me il Napoli ce la può fare. Sì, io penso che non ci sia nessun pericolo che Mazzarri voglia fare la partita con il Chelsea. Soprattutto all'andata, quando può gestire, deve avere l'obiettivo di non subire gol, credo, come idea di base. Perché, ripeto, poi il Chelsea concede spazi, li ha concessi in tutta la gestione di Villas-Boas, che già quando era a Porto, pur facendo cose enormi, aveva dato la sensazione che la fase difensiva non era l'aspetto migliore su cui lavorava. Quindi io credo che ci siano delle ottime basi, e personalmente al momento del sorteggio pensavo che questa fosse la sfida in cui c'erano più possibilità per un'italiana. Poi Milan-Arsenal è stata una gara completamente sorprendente in questo senso. Massimo ascoltatori, Bruno da Milano, poi ci fermiamo per il traffico. Dica Bruno. Ciao, complimenti. Sei. Grazie. Sempre un piacere ascoltare la lucidità di alcune considerazioni. Io volevo fare soltanto due appunti. Tornavo al discorso che hai detto bene tu, che l'Inter è morta la sera di Madrid, cioè morta, nel senso finita. È finita come squadra. Se vai a vedere, Real Madrid ha un'età media di 24-25 anni, è andata a cercarsi gioiellini spendendo forse la metà di quello che ha speso poi Moratti per una squadra di anzianotti, mettiamola così. E sono convinto anch'io che il Napoli abbia tutte le carte in regola, perché Mazzarri, dopo l'esperienza di Regina dove aveva 10 punti in meno, si è salvato. Non penso che sia uno sprovveduto, e secondo me le ultime partite dimostrano che forse aveva cambiato preparazione per arrivare adesso con i tre davanti veramente in forma per andarsela a giocare. Diciamo che si è preso una pausa di riflessione per qualche domenica e ieri a Firenze gliel'hanno fatta vedere, insomma. Secondo me più o meno poi non è così complicato il calcio. Ci vogliono me persone serie e molto molto pragmatiche, ed è quello che si sta vedendo in questi giorni. Mi viene in mente anche Mondonico, voglio dire, non so a te Massimo. No, certamente. Poi adesso andiamo. Il discorso della programmazione è vero, è proprio un discorso culturale, di mentalità. L'ascoltatore citava il Real Madrid. Io ho visto il Barcellona sabato scorso contro lo Osasuna perdere, ma in quella partita, nel momento di difficoltà in cui la Liga stava per andarsene, Guardiola nell'intervallo ha inserito un altro ragazzo giovanissimo che si chiama Teio, che è entrato, è stato decisivo, quasi basta, è riuscito a pareggiare la partita. C'era già Cuenca, che è un altro che ha 20 anni, c'è Thiago Alcantara, cioè il Barcellona, che in questo momento è la squadra più forte del mondo nettamente, sta già lavorando sul futuro. Sì. Massimo, c'è Matteo della provincia di Trento, poi parliamo un attimo di Juventus, di quello che Conte ha detto ieri, di questa settimana, di chiediamo rispetto e vogliamo rispetto, eccetera eccetera. Matteo, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo fare questo appunto, che praticamente Moratti, quando ha preso ancora Benitez, ha preso l'allenatore ben sapendo comunque che gli sarebbero serviti dei giocatori nel suo sistema di gioco. Mascherano, cioè tipo Mascherano, aveva richiesto Benitez, non è arrivato nessuno quell'anno lì. Successivamente è arrivato Leonardo in corso, ha chiesto dei giocatori, sono stati presi, ma comunque secondo me non a livello da Inter per i risultati che si stanno conseguendo. È arrivato Gasperini che giocava con un 3-4-3, aveva richiesto tre giocatori, non è arrivato neanche uno dei giocatori che aveva richiesto Gasperini. Quindi io credo che la società deve farsi un mia colpa, perché è inutile prendere, fare un progetto, prendere un allenatore anche di livello come Benitez e non accontentarlo sul mercato. Cioè, non è solo José Mourinho che può vincere le Champions League e il campionato, io sono convinto che sono interista, cioè Benitez ha vinto una Champions League con Liverpool. Allora, ho capito, però siamo sempre al peccato originale. Benitez non era un allenatore gradito a Moratti, e la sensazione che ho sempre avuto io è che Moratti, se non gradisce un allenatore, fa fatica a prendergli i giocatori. Sì, peraltro parliamo sempre di gradimento nelle scelte di Moratti, al di là forse un po' di Mancini, un po' di Mourinho, che erano state studiate più a fondo, parliamo di un gradimento determinato da un incontro di una, due ore dopo che Branca prende contatti con Benitez, attivano tutta una serie di situazioni e anche di garanzie verbali proprio sui giocatori, come diceva poco fa l'ascoltatore, cosa che, di cui ha parlato anche Gasperini, garanzie che poi non vengono poi confermate. Si incontrano, Moratti a pelle, di pancia, di emozioni, di emotività, come vogliamo chiamarla, dice: bene, Benitez può fare l'allenatore dell'Inter. Però la base delle scelte non può essere solo sentimentale. Senti, parliamo un attimo di Conte. Prima lo sentiamo, sentiamo cosa ha detto ieri alla vigilia di questa partita con il Catania, che sarà l'unico anticipo di oggi, 20:45. Io penso che a livello di eleganza e di stile non aspettarmi nessuna indicazione da tutte queste persone, quindi questo lo dico in maniera molto molto molto serena. Ognuno ha un proprio modo di fare, ognuno ha un proprio modo di essere. Se sono poco elegante o se sono stato poco elegante, significa che cercherò di andare a lezioni di bon ton per affrontare meglio alcune situazioni che penso che fino adesso sono sempre state affrontate in maniera molto molto serena, e penso anche di essere stato molto sereno, anche se ho detto delle cose forse che hanno destabilizzato un pochettino, no? Però l'ho detto sempre in maniera molto molto serena. Cosa ha detto Zeman? Vabbè, ma Zeman ha detto una cosa, cioè una provocazione incredibile, ha detto, cioè la provocazione più grande è, secondo me, l'unico rigore che c'era a Parma era quello su Giovin. Poi c'è la battuta che dice sì, è cambiato dopo Calciopoli che la Juve non ha più 20 rigori a stagione, ma la grande provocazione è quella su Parma Juve. Non ce la fa, non ce la fa. Non ci riesce proprio. Il mio abituale compagno di viaggio al sabato, ciao Andrea Zorzi. Ciao, ben ritrovato, ben ritrovati tutti anzi. Ciao Andrea. Ne abbiamo parlato per settimane. Oggi non c'è il Sei Nazioni, niente sconfitte da commentare, eh? No, io infatti ho colto l'occasione per tornare a vedere un po' di pallavolo, visto che era un po' che, venendo con te lì al sabato, non vedevo pallavolo. Non frequentavi. Esatto. Cosa hai visto? Sì, a Roma qui c'è la semifinale, la prima, Macerata contro Modena, quasi pratica archiviata, con Macerata che sta vincendo 2-1, Modena un po' rinunciataria, una bella partita, un discreto pubblico. Mi mancava un po' la pallavolo, una pallavolo super fisica, negli uomini è veramente incredibile come ormai questi ragazzi saltano, schiacciano velocità fotoniche, e qualche volta, proprio per questa ragione, le azioni sono un po' troppo corte, quindi manca un po' quel fascino dell'azione che prolunga, che continua con la difesa. Per il resto, bella situazione, e un po' mi mancava. Sei andato a Roma anche perché per asciugare un po' di lacrime olimpiche, o no? No, dai, adesso no. No, in realtà Roma va, innanzitutto vale sempre la pena vederla. Poi oggi venivo a piedi dalla metropolitana e sono passato vicino a quello che è stato il bacino Remiro durante le Olimpiadi delle 60, mi è tornato in mente l'ultima settimana un po' combattuta sulla mancata candidatura di Roma, e quindi quello è un altro argomento di quelli che magari affronteremo con più calma, che però mi pare valga la pena non lasciar cadere, o meglio, la candidatura ormai è caduta, rimangono aperti moltissimi nodi che riguardano invece la politica sportiva, ciò che si potrebbe e si dovrebbe fare. Massimo, questa storia delle Olimpiadi di Roma, tu come l'hai vista? No, devo dire che vi avevo seguito in particolare un sabato in viaggio in cui parlavate di questo, poi avevo sentito anche Andrea con Oscar Giannino, insomma, dando dei riscontri molto più sostanziali e oggettivi alla mia sensazione, che era quella che, di un investimento e di un impegno che sarebbero stati sproporzionati rispetto alle potenzialità, alle possibilità che abbiamo adesso come paese, e purtroppo anche alla fiducia che rimane a zero di poter affrontare un evento di questo genere senza sperperare denaro, sperperare investimenti, e avendo un ritorno che non si ferma poi alla fine dell'evento stesso. E quindi devo dire, ero pessimista, avevo sentito tanti altri dati che supportavano questo mio pessimismo, certo. Concordo col fatto che non si sia proceduto. Senti Andrea, sabato prossimo torni? Sì, torno. Aspetto, torno. Aspetto. Mi mancate, dai, insomma, alla fine ormai è un appuntamento a cui tengo molto. Via Monterosa, non venire qui alla Bitia, che siamo qua solo oggi, eh. Mi raccomando. D'accordo. Buon viaggio, ciao Andrea. Ciao. Ormai avete finito, quindi buon proseguimento lo stesso e la prossima occasione. Bene, domani, grazie, a presto. Domani, almeno per quanto mi riguarda, ricomincio dalle 4:30 alle 7, come any given Sunday, no? Ogni maledetta domenica. Un'ultima cosa, sì. Massimo Callegari, hai visto l'Anzi? Cos'è, Quizzone, no? Quizzone. Ti potevamo farlo. Bisogna farlo. Sì, ho visto l'Anzi, sì. Gus Hiddink, uomo buono per tutti i luoghi, per tutte le stagioni, a me sembra sempre la migliore delle scelte Hiddink. Cioè, io fossi il presidente di una squadra che vuole costruire qualcosa, io Hiddink lo prenderei sempre, perché è un allenatore di grande carisma, grande intelligenza, grande portafoglio, ho sentito 10 milioni. Sì, devo dire, sul costruire non lo so ormai, perché parliamo di un allenatore che ha fatto grandi cose, ma con il PSV Eindhoven come base e come costruzione a metà fine anni 80. Poi ha fatto altre cose molto, molto buone, però sempre un po' di passaggio. L'ultima con la nazionale turca non è stata una buona esperienza, non ha ricostruito un movimento che è in grande difficoltà. Mi sembra una scelta per lui economicamente clamorosamente vantaggiosa, mi sembra quella una squadra che ancora deve costruire molto, ricordando che Manchester City ci ha messo parecchio, però rispetto già a 2 anni fa, quando Kakà disse non ci vado, ha costruito con giovani, con una base, con un allenatore, manager giovane come Mancini, e qui mi sembra un progetto ancora complicato e molto da costruire, perché Žirkov, Roberto Carlos e Eto'o non sono ragazzi, non sono una squadra. E la squadra è lontana dalla zona Champions ora nel campionato russo. Lontana dalla zona Champions, però credo sia anche un allenatore credibile, in grado di dare credibilità, certo, a un progetto, e quindi di aprire una strada ad altri giocatori. Certo. Capello dove va invece? Credo che si riposi, che abbia avuto le sue ragioni, ma abbia perso una opportunità pazzesca per dimostrare che anche nei tornei corti poteva essere il numero uno dopo tante eliminazioni in Champions o sconfitte in finali internazionali. Grazie Massimo, torna presto, t'aspetto. Certo, prestissimo. Grazie Massimo Callegari, Pietro Lacorte, Margherita, qui Giorgio De Luca in redazione a Milano insieme a Roberto Scaltritti. Domani alle 4:30 ci risentiamo.